No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. Pronto? No, non ho detto gioia. E il conduttore? Silvio forever sarà Silvio realtà. Silvio per sempre. Dai, dai, dai Andrea, svegliati! Su che lo puoi fare! E noi ti abbracceremo tutti, saremo tutti lì felicissimi, insieme a te, pensa che bello, tu, la tua mamma, il tuo papà, il presidente del Milan, Franco Baresi, il capitano, Maldini, tutti gli altri. Fallo, lo devi fare! Perché Silvio forever. Avete sentito un Silvio Berlusconi in versione motivatore? È un pezzo bellissimo che abbiamo ripescato di quando Berlusconi a un certo punto, di fronte a un ragazzo in coma, grande tifoso del Milan, lo incitava a svegliarsi. Ecco, potrebbe finire così. Potrebbe finire con Berlusconi che fa il motivatore per gli anziani, per i disabili, in un centro specializzato. Il procuratore generale è favorevole all'affidamento ai servizi sociali e nei prossimi giorni, a meno che no, non arrivino sfracelli, Berlusconi inizierà i servizi sociali. E il conduttore? Come? Pronto il conduttore? Senti? Pronto? Sì? Sì. Pronto? Sì? Sì. E il conduttore? È il conduttore, no, questo? Sì, il conduttore. Sì, lo chiedo. È il conduttore? Pronto? Fa impazzire. Pronto? Un centro anziani. Sentite cosa ne pensano di un centro anziani di Roma, eh? Sarei onorato che venisse Berlusconi a portarmi il caffè. Voi lo vorreste? Io no. Manco se mi pagasse oro. Scusa, ma perché no? Perché no? Guarda che te faccio cancellare. Ah, no. Siamo tutti uguali qua. Quindi uno vale l'altro. Sì. È venuta qui per chiederci che Berlusconi venisse qui a svolgere la sua attività. C'ha da fare col matrimonio, si sposa. Silvio realtà, Silvio per sempre. Poi come al solito arriva Brunetta. Lucidi però, lucidissimi questi anziani, eh. Senti Brunetta, senti Brunetta che si inventa. Renatino, Berlusconi è un simbolo come Aung San Suu Kyi. Io sbaglio sempre la pronuncia, come la leader birmana. Che però era perseguitata dall'esercito. È questo, dall'esercito, esatto, dai militari. La differenza. Ci sono differenze, diciamo la verità. Comunque, secondo Brunetta, perseguitata la leader birmana, perseguitato Berlusconi. Ma lei pensa che Berlusconi possa essere impedito, imbavagliato, limitato? Berlusconi è un simbolo. E i simboli non si impediscono, non si imbavagliano, non si bloccano. I simboli, pensi a Aung San Suu Kyi, era bloccata a casa sua ed è diventato un simbolo mondiale. I simboli, quando si tenta di dirli e bloccarli, diventano ancora più forti. Perché Silvio, Silvio. Io non so se ci si renda conto dell'enormità del paragone, no? Aung San, come cavolo si chiama? Aung San Suu Kyi? Ma non è difficile. È difficile, lascia perdere. È un premio Nobel per la pace. Aung San Suu Kyi. L'enormità, la differenza. Vabbè, Brunetta però dice così. La differenza tra un premio Nobel per la pace che ha lottato in Birmania per i diritti. Vabbè, e Berlusconi, vabbè. E Berlusconi. Allora, succede nel Partito Democratico che per questa stupidaggine di Renzi di candidare 5 donne stupidaggine totale, assoluta, stupidaggine, luogo comune. Ma luogo comune è un corno. Luogo comune, ma quale simbolico? Per mettere capolista 5 donne. Stupidaggine colossale. Giovani. Ma che c'entra con questo giovanilismo? È una stupidaggine colossale. Comunque, ancora più stupidi di fronte alla stupidità di questa scelta, ancora più stupidi quelli che si arrabbiano. Per esempio, il nostro amico Michele Emiliano, sindaco di Bari, che rinuncia alla candidatura. Forse, perché poi, sai, là basta mettersi d'accordo, poi alla fine si metterà d'accordo, vedrai. Sono sicuro che si metterà d'accordo. I quali, siccome sono i numeri due, si inalberano, dicono: no, Renzi mi aveva detto, mi ha avvisato solo alle due di notte. Contano le preferenze, scusa, che c'è? A parte che contano le preferenze, cioè. Sentiamo Emiliano, dai. C'è un problema di riequilibrio di genere nella politica. Praticamente quasi tutte le persone che contano in politica in Italia sono uomini, e occorreva un elettroshock, e Renzi è specializzato in elettroshock. A me, per esempio, il messaggino è arrivato alle due di notte. Dopo che, diciamo, per un mese e mezzo avevo girato mezza Italia dicendo che avrei guidato la lista, alle due di notte del giorno della presentazione della lista ho appreso del cambiamento. E dunque dice che preferisce rimanere a fare il sindaco che fare il secondo in Europa. Ma raccogliesse le preferenze, così sorpassa la Picerno e siamo tutti tranquilli. Emiliano, dai, su. Lei preferisce, certo, rimanere a fare il suo ruolo di sindaco e non candidarsi come secondo in quella lista, ho capito bene? Perfettamente, anche perché qui in Puglia, come è noto, abbiamo tante cose da fare anche l'anno prossimo ed è inutile che io vada in Europa. Abbiamo già un ospite collegato, caro molto Parenzo, bene, però ma non però abbiamo detto nulla su Grillo, quindi qualcosina bisogna dirla in che questo editoriale iniziale. Che no? È successo su Grillo? Di cosa ha detto il tuo amico Beppe? Ah beh, sì, sì, hai ragione. Le donne veline. Quattro veline e un gabibbo, ha detto il comico. Vabbè, il gabibbo è Renzi. Che si fa pagare i comizi, aperta parentesi, idioti quelli che pagano il biglietto per sentire cose che possono sentire gratis. Assumiti le responsabilità di quello idioti, che dice. Idioti, sciocchi, quelli che pagano il biglietto quando possono sentire comizi gratis. Allora, riassumo, Picerno, Moretti, Mosca, Bonafè, secondo Beppe Grillo, ecco, sono quattro veline. E quattro un gabibbo, chi sarebbe il gabibbo? Renzi, dai, su, punto. Renzi. Silvio per noi, futuro e presente. Siamo qui con Chicco Testa, buonasera. Oh. Buonasera. Come andiamo? Bene, dopo una lunga giornata, cominciata molto presto. E vabbè, lei lavora, noi meno, diciamo. Diciamola tutta. Allora, parla per te. Veramente. Io lavoro meno di Chicco Testa, questo è sicuro, guarda. Certo, cioè, d'altra parte guadagno molto meno di Chicco Testa, dunque è giusto che sia così. Allora, io volevo dire a Chicco Testa una cosa. Se lo conosco un minimo, secondo me lui pensa che a Berlusconi deve essere data la possibilità, al di là di quello che deciderà, ormai sembra sicuro che avrà i servizi sociali, deve essere data la possibilità di fare campagna elettorale per Forza Italia. O sbaglio, Chicco Testa? Lei pensa una cosa del genere? No, non pensi male, nel senso che credo che sia, diciamo, impossibile e credo, tutto considerato, anche ingiusto che Berlusconi non possa esprimere la sua opinione. Diciamo, anche una persona che sta in carcere, diciamo, tramite i familiari o tramite delle lettere o tramite tante altre cose può... Non gli è mica impedito di parlare o di manifestare la sua opinione a un carcerato, no? Sì, no, d'accordo, però io... Carcerati illustri che hanno tenuto, sì, rubriche sui giornali... no, ma qui si sta parlando di un'altra cosa, cioè secondo te è giusto che Berlusconi possa fare campagna elettorale fino al 25 maggio? In prima persona. Essendo il capo comunque del principale partito, sembra, dell'opposizione, anche se poi i sondaggi lo danno terzo? No, non ho capito, scusami. Cioè è giusto che Berlusconi possa fare campagna elettorale secondo te il 25 maggio? I giudici dovrebbero, come dire, consentirgli di fare campagna elettorale? No, ma io credo che la giustizia debba fare il suo corso, diciamo. Io non so quali sono le regole di questo gioco perché fortunatamente non lo conosco, cioè chiamiamolo gioco, no? Quali sono le regole di questi procedimenti, no? Devono andare tranquillamente, pacificamente, se... Sì. E deve essere affidato ai servizi sociali prima del 25 maggio, sarà prima del 25 maggio, se invece non lo so, questo onestamente no, non però lo so. Secondo te uno dei leader dell'opposizione ha il diritto di fare campagna elettorale, sì o no? Beh sì, certo. Ma in quali modi non lo so, voglio dire, è chiaro che se sarà affidato ai servizi ai servizi sociali, lo farà in una maniera diversa che se fosse un uomo libero, è ovvio. Sì. Ma non lo consideri un po' un'anomalia il fatto che il leader comunque dell'opposizione con una condanna definitiva, cioè secondo te oltreoceano, tu che sei uomo di mondo, come la vedono sta roba di un leader che va lì tra gli anziani ai servizi sociali, cioè, e poi secondo... interviene... Esatto. Sulle questioni della secondo politica. Secondo Luttuak, per esempio, Berlusconi in un altro paese sarebbe già in galera. Secondo per cui, chi? Secondo Luttuak e altre persone, in un altro paese, in un paese anglosassone, per i reati che ha commesso, Berlusconi sarebbe già con le manette in galera. Come Madoff, sostanzialmente. O no? Ma siccome non siamo in America, ma siamo in Italia, no? Quindi la situazione è diversa, voglio dire. Cioè la giustizia è diversa, dici tu. Scusami, c'è stato in Parlamento italiano, c'è stato Toni Negri, è stato candidato Valpreda, cioè è una situazione completamente diversa. Io penso che Berlusconi naturalmente debba scontare la sua pena, quella che gli è stata comminata, ma che questo non gli impedisce di manifestare le sue opinioni. No, le sue opinioni. E penso che dobbiamo evitare di farne è quello che vorrebbe Brunetta, una specie di martire, di martire, certamente non paragonabile con esempi completi, di completi altri contesti, altre situazioni, altri livelli di pericolosità, ma che accanirsi sarebbe, anche per chi non ama Berlusconi, controproducente. Sei ancora a casa, Simo? Le zanzare di casa mia. A proposito di Dell'Utri, caro Parenzo, avete sentito prima la solita voce di Dell'Utri che ci accompagna ormai da anni? Sì, sì. Mi dicono che sia molto preoccupato di finire in galera, di finire in carcere. Sì, sì, addirittura, adesso non vorrei dare una notizia ma voglio confermarla, i giudici hanno anche paura che vada via, che insomma, dopo diremo qualcosa. Sei sibillino. No, ma ho saputo delle cose che devo... Ho saputo delle cose, perché sei una barba finta, che no, sei? No, non sono una barba finta, faccio giornalista, polpette ogni tanto... Polpette avvelenate, ma che no, hai? Ogni che tanto fai? Mi dicono qualcosa. Sei del SISDE, che è il generale col monocolo, De Lorenzo. Quando mi ricordo... Sei? Quando... Che dici? Che dici? Quando mi hanno detto, oddio, che potrebbe forse i giudici... Vabbè, poi vi dico, intanto torniamo. Ma che dico, allora, quando mi ricordo di fare il giornalista, sì, ogni tanto, sì, mi danno qualche informazione. Sì. Allora, mi hanno dato un'informazione che riguarda il signor Dell'Utri. Sì, polpette avvelenate. Ma non c'è nessuna polpetta avvelenata. Ma quando mai? Vabbè, intanto la cosa incredibile è che vogliono portare a processo Bossi per vilipendio a Napolitano. Un comizio del 2011, ragazzi, però ma i giudici non c'hanno veramente, ma 2011, non hanno veramente un cazzo da fare i giudici. No, altro, no, cioè, è questo, è una cosa 2011, incredibile. Però. Ma siamo 2011, 2015, siamo al 2014, una frase detta da Bossi, capito, in un comizio. Però, se tu dici che col tricolore mi pulisco il culo, sai? Ho capito, però ho detto una volta, signor Bossi, per io sono dalla parte sua in questo caso, perché ho detto per sbaglio, ho detto, volevo dire che con Cruciani, ma non è per il tricolore via, tra l'altro, è ma per perché una... cosa ho detto allora? No, ha detto tante stronzate, sì, lo so, Bossi, ne ha dette tante. Cos'è che ho detto? Ha detto una Padania libera. Cosa no, ho detto? Questo non c'entra niente. Padania ha mia. Detto una cosa che riguarda Padania cristiana mai musulmana. No, non è quella. No, quello ho detto. Ha detto, ha dato del terrore a Napolitano. È vero, di Napoli. Vabbè, confermo, Bossi, confermo, adesso glielo faccio risentire cosa confermo, disse. Confermo, di dov'è, scusa, cretino. Ma sì, d'accordo, infatti, non sai neanche la geografia. Ma infatti tu, secondo me lei non va, non deve andare a processo. E di dove sei? Io sono di Roma. E sei un terrone? Lo so che sono un terrone. E allora cosa vuoi di più? Aspetta, terrone. Sono terronissimo. Un attimo, facciamo riascoltare il Bossi del 2011. Certo. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica. D'altra parte, si chiama Napolitano. Ah no, non sapevo che era Terù. Su, ragazzi, comunque uno la possa pensare su Bossi, andare a processo per una cosa del genere nel 2011 è una stronzata e una perdita di tempo, diciamolo chiaramente. Sì, su, vero, dai, e basta. Allora, Chicco Testa, come definire Grillo? Come definire Grillo che dà delle veline alla signora Picerno, Moretti, Mosca e Bonafè? Detto che a me, francamente, questa storia delle cinque candidate donne mi fa orrore, orrore. Ti ho sentito. Dai, tu, se vuoi essere un po' politicamente scorretto, devi dirlo anche te che fa orrore questa cosa delle cinque donne. No, orrore no, è una scelta come un'altra, diciamo, per quello che ho visto queste cinque signore, queste cinque deputate, mi parlano anche tutte persone abbastanza con la testa sulle spalle, certo è una scelta discutibile in un qualche modo. D'altra parte, perché alcune sono già deputate, tra l'altro. Sì, vabbè, andranno in Parlamento europeo e lasceranno il loro posto, lo dicano. Il loro posto qui. No, ma sai, Grillo, cioè, io Grillo non l'ho mai capito, ti devo dire la sincera verità. Cioè, non ridevo prima, rido ancora di meno adesso. È un tipo di umorismo che mi sembra molto grossolano, per me incomprensibile, manca completamente di ironia o di quello che lui pensa essere ironia, e per di più molto molto maleducato. Ora, che in questo paese, anche in riferimento a quello che avete detto su Bossi, si sia da ormai da lungo tempo perso il senso della misura nel dialogo tra le persone e soprattutto tra chi ci dovrebbe rappresentare, e questo è assolutamente vero. Ma insomma, che debba continuare questa corsa al ribasso mi sembra francamente una cosa senza senso. Dopodiché, cioè, no, definire Veline la signora Picerno, Moretti, ma come si fa? Ma abbi pazienza, ma anche definire Gabibbo Renzi, sì, che cos'è? Ma insomma, ma tiri fuori qualche idea, Grillo. Io non ne ho sentita neanche una. Tra l'altro, Grillo si proclama, diciamo, un libertario, un antiburocratico, un antistatalista. Ed è a favore del mantenimento del Senato. I suoi deputati sono dei forcaioli pazzeschi, gente che non chiede altro di continuare a mandare la gente in galera, che vuole aumentare, nonostante dicano il contrario, la spesa pubblica, perché secondo loro lo Stato dovrebbe occuparsi di tutto. Rissaioli che, essendo minoranza, non accettano mai una decisione della maggioranza. Fa gofaci, nel senso che si mangiano uno con l'altro. Adesso avevano, come sono, fagofaci? Sì, ho trovato uno decente, che era questo sindaco di Parma. Stanno cercando di fare di tutto per distruggerlo, solo perché forse il poveraccio, diciamo, pensa con la sua testa di amministrare la città. Cioè, per cui veramente, per me, ieri hanno gridato al Senato: fuori la mafia dallo Stato. Hanno fatto uno show pazzesco ieri, vabbè, fuori sulla la mafia TAB. Dallo Stato, figurati. Qualcuno ha dato dei fascisti, siete dei fascisti, sì, certo, perché a un certo punto la dialettica parlamentare presuppone che si discute, si ragiona, dopodiché c'è una maggioranza e c'è una minoranza. È un atto di fascismo anche non lasciare mai decidere la maggioranza, no? Senti, Chicco, ma che ne pensi invece di oggi, ieri, anzi non mi ricordo, Renzi ha attaccato il professor Settis, che lo criticava sulla Costituzione. Devo dire, in questo caso io sono molto critico sul Senato, che per me va chiuso con la serranda, abbassato, ho messo una targa Fondazione Senato e non se ne parli più. Basta con questa storia dei sindaci, del bicameralismo. Ma no, non solo del bicameralismo, ma anche dell'esistenza del Senato. A un certo punto è finita un'avventura, si chiude la serranda e via, senza questo passaggio. Ma comunque, a parte questo, ha dato questi professoroni, secondo te, sono un po' una palla al piede per l'Italia? Sono stati, o lo sono ancora, sì o no? Secondo me in un qualche modo sì. Adesso, palla al piede è un'espressione che non mi piace, ma è visto che anche Zagrebeschi alla fine si è fatto una specie di autocritica, ha detto forse siamo stati tranchant, perché tranchant vuol dire siamo stati un po' rigidi, un po' definitivi, voglio dire, perché sai, accusare di autoritarismo chiunque voglia mettere mano alla Costituzione, è ridicolo. Chiunque ritenga che una carta importante emanata nel 45 dopo il fascismo, eccetera eccetera, debba essere intoccabile, o che aumentare i poteri del Presidente del Consiglio o velocizzare il processo decisionale è da ignoranti, sia un diciamo attentato alla libertà. E poi, detto sempre con questo tono di supponenza che questi signori, ahimè, hanno, in realtà sono dei grandissimi conservatori, questa è la verità. Non c'è dubbio. Grazie a Chicco Testa. Io concluderei con Gasparri contro Littizzetto. Mandatemi Gasparri contro Littizzetto, spettacolare. Gasparri che dice alla Littizzetto, chiude perché non si può ascoltare. Gasparri contro Littizzetto, via. Comunque, io quando guardo mia figlia sono felice, perché dico: pensa se fossi stato il padre della Littizzetto, mi sarei dovuto buttare dalla finestra. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, di razzi. Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. Basta con questa storia adesso, Basta con questa storia. Comunque, caro Parenzo, l'hai combinata grossa un'altra volta. Diciamola tutta. Il conduttore, Sì, è conduttore, Pronto? Sì. E il conduttore? Sì, e beh, per forza. Il conduttore, L'hai combinata grossa un'altra volta. Perché l'hai combinata grossa? Perché hai definito degli idioti, se non mi sbaglio, degli idioti, diciamola tutta. Mi sono già arrivate delle mail. Sì, andiamo avanti. Mi sono già arrivate delle mail. Avanti. Deficienti, non so, non mi ricordo nemmeno il termine, perché guarda, sei veramente una brutta persona. Deficienti vuol dire deficio, deficit, vuol dire mancanti. Quelli che pagano il biglietto per andare a vedere lo spettacolo di Beppe Grillo sono dei risentiamo. Quattro veline e un gabibbo, ha detto il comico, il Renzi, che si fa pagare i comizi, aperta parentesi, idioti quelli che pagano il biglietto per sentire cose che possono sentire gratis. Assumiti le responsabilità di quello idioti, che dici. Idioti, sciocchi, quelli che pagano il biglietto quando possono sentire comizi gratis. Quelli che vanno ai comizi, anzi ai, agli spettacoli di Grillo, sono degli idioti. No, ragazzi, sintesi. Però non è la sintesi, è quello che hai detto. Su. No, furbino del quartierino. Ma... No, cara barba finta della zanzara. No, quello hai detto. Hai detto. Barba finta, vabbè, attento. D'accordo. Ho detto semplicemente che se c'hai una cosa gratis e una cosa a pagamento con lo stesso contenuto, se paghi il biglietto. Hai detto quello che hai detto, che sono degli idioti, dai, su. Sei uno sciocco se paghi il biglietto quando puoi sentirlo gratis perché c'è lo stesso spettacolo con le stesse cose da 20 anni. Questo ho detto. David? No, ma non c'era giù questa volta. Allora, c'è. Hai dato degli idioti a quelli che pagano il biglietto per andare a vedere gli spettacoli di Grillo. Se c'è gratis. Vabbè, scusa, comunque, gli hai dato degli idioti. Precedentemente, lo stesso Parenzo aveva così definito quelli che stanno in Parlamento per il Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Uno che parla di rivoluzione antropologica, di un personaggio che sa solo dire parolacce, ma andare a fare in culo e candidare della gentaglia in Parlamento. Candidare gentaglia in Parlamento. Allora, per chiarire tutto il tuo atteggiamento, non hai sbagliato, hai detto quello che pensi. Sì, ma posso chiedere scusa se qualcuno si è offeso, ovviamente. Ma nella critica ci sta, visto che il capo di quel partito è il primo che usa questo linguaggio, di che si offendono. Gay di tutta Italia, assediate i comuni, le procure, i tribunali, dopo la sentenza di un giudice di Grosseto, alla faccia di Bagnasco e della Conferenza Episcopale Italiana, fate registrare i vostri matrimoni, chiedete pari diritti come quelli tra marito e moglie, sia al matrimonio tra froci e lesbiche, lo possiamo dire noi qui alla Zanzara, sia al matrimonio tra froci e lesbiche, no, froci e lesbiche, sia al divorzio breve, sia a tutte queste cose. Assediate i comuni, le procure, i tribunali, alla faccia di Bagnasco che oggi ha detto che la sentenza di Grosseto stravolge il matrimonio tradizionale. Certo che lo stravolge, meno male che lo stravolge. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Questo è il parere di TG3 titoli. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Udienza a Milano, la Procura Generale favorevole all'affidamento in prova ai servizi sociali di Silvio Berlusconi. Renzi al TG3, per le banche è arrivato il momento di aiutare le famiglie, nessuna preoccupazione per il cammino delle riforme. Voto di scambio, il Senato dice sì alla ghigliottina e scoppia la bagarre, i 5 Stelle annunciano 4 giorni di protesta nelle piazze sulla rete. Caduto il divieto di fecondazione eterologa, si apre la polemica sulla legge 40, testo da rifare o da applicare. La Grecia, dopo 4 anni di assenza e una dura politica di tagli, è tornata sui mercati finanziari. Ad Atene esplosione davanti alla sede della banca centrale. Per il caso Maugeri, sequestrati all'ex governatore della Lombardia, Formigoni, beni e conti correnti per 49 milioni, c'è anche una mega villa. L'omicidio di Yara Gambirasio, la conferma dal DNA, il killer della ragazza è figlio di un autista morto nel 99. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. Pronto? Zazza, zazza, E il conduttore? Beh sì, fino a prova contraria sono il conduttore. Comunicazione. Dimmi. Domani io alle 17 sarò, non dire che non ti interessa, perché, non, perché questo è un tema importante, alla sede della società Dante Alighieri di Roma alle 17 alla presentazione del manuale dei diritti fondamentali e desiderabili. È una manifestazione importante sui diritti che io trasmetterò in diretta in uno speciale della Zanzara domani. A questo convegno parteciperanno, oltre a Cesare Romiti, un grande personaggio di cultura rom, che è Santino Spinelli. Ma chi allora, se ne frega? Domani alle 17 la Zanzara riprenderà questa presentazione. Ma non è vero, non manuale è vero. Dei diritti fondamentali e desiderabili alle 17 alla sede della società Dante Alighieri di Roma, con personaggi di grande cultura. Ma dico, ma sei impazzito? Io non riprendo nulla di tutto ciò. Ilaria Borletti Buitoni ci sarà. Spegnilo, il signor Catricalà. All'aeroplano è scoppiato il mondo. Allora, su una cosa Grillo ha ragione, però Picerno Moretti, zitto, Picerno Moretti Mosca Bonafè, Grillo le considera delle veline, però attenzione a leggere attentamente Grillo. Quattro delle cinque capitiste nominate direttamente dall'Ebetino, così Grillo definisce Renzi, sono attualmente deputate. Un anno fa sono state elette per fare 5 anni alla Camera. Due di loro, la contabile Picerno e la Mosca, sono al secondo mandato. Su questo, al di là dei termini utilizzati, che sono quelli scherzosi di Grillo e Bettino, sono al secondo mandato e quindi non capisco. No, ma lascia perdere il secondo mandato. Lascia perdere il secondo mandato. Sono state elette un anno fa per fare 5 anni alla Camera, sì o no? Sì, sì o sì. No? Beh, ma tu ricordi nella tua infinita demagogia, aspetta, che alle elezioni europee c'è una cosa che si chiama preferenza e quindi se gli italiani non vogliono scrivere il nome Picerno, se elette cosa faranno? Se lo vogliono ma chi c'entra? Aspetta, se elette cosa faranno? Si dimetteranno e andranno a scaldare le poltrone a Bruxelles e Strasburgo? No. Perché invece mi fai finire Grillo, no? Rinunceranno e faranno passare i trombati impresentabili che da soli non riuscirebbero a prendere i voti neppure per amministrare un condominio? Questo dice Grillo. Ora Emiliano qualche voto lo prenderà, Così, un avvertimento a Grillo. Mi sono svegliato questa mattina. Massimiliano, provincia di Roma. Pancia una bollicina. Buonasera Parenzo. Dica. Il mio intervento era relativo a ciò che ha detto poco fa il suo collega, il signor Parenzo, relativamente al fatto che secondo lui tutti quanti quelli che pagano per andare a vedere uno spettacolo di Beppe Grillo, quindi per andare a vedere come sì, sono degli idioti, sono degli idioti. Secondo me lui è un pochino confuso per un motivo molto semplice, perché se io pago per andare a vedere, ma uno può pagare quello che vuole, quello, esatto, anche per vedere 100 volte anche per vedere 100 volte lo stesso, esatto, spettacolo, dai, su. E allora perché vi definisci degli idioti? Vergognati, no, è uno shock. Perché sei contro Grillo? Perché ma sei contro Grillo? Sono contro Grillo, io come attore mi piace, posso molto completare, io ho il diritto, diciamo, di pagare per vedere qualcosa che voglio vedere, ma questo a certo differenza, ma se lo può vedere gratis. Però, esatto, ma non è così, perché non è gratis, perché i comizi di cui parla lei non uguali, sono gratis, sono finanziati dai soldi che io pago di tasse, ha capito? No, non e ho capito i partiti questo. Si prendono per organizzare. Ma questa è una stupidaggine, non ho capito questo. Questo non c'entra nulla, Massimiliano. Cosa c'entra? Come questo? Non c'entra nulla. Questo cosa c'entra? Lei paga uno spettacolo quanto vuole, questa è l'unica risposta. No, certo. E Parenzo non ha il diritto di chiamarla idiota, di definirla idiota. Attenzione, Parenzo ha detto questo, punto. No, attenzione, lui ha detto che le persone che vanno a vedere gli spettacoli per ascoltare un comizio, ha sottolineato questa cosa qui, sono degli idioti. Quando c'è il comizio gratis in piazza, certo. Non è gratis in piazza, perché poi se quella è una raccolta fondi va bene, sono organizzati con i soldi miei, i soldi che io pago e che lo Stato dà ai partiti. Ma quello non c'entra nulla, dai. Diego, provincia di Milano. Sì, buongiorno. Chiamavo un po' per lo stesso motivo, visto che io sono uno di quelli che probabilmente il signor Parenzo definisce idioti. Ma no, ma è generico, uno sciocco, no, dai. Generico, lei adesso si sta arrampicando sugli specchi. Comunque, ma no, hai dato niente, dell'idiota a chi va a pagare lo spettacolo di Grillo. Almeno no, nessuna coda di paglia. Se lei vuole pagare un comizio, quando può sentirlo gratis, lo paga e dica che è una forma di finanziamento. In quel caso mi sono sentito un idiota. Per la prima volta nella mia vita ho pagato, felicemente, e le assicuro che non mi sento più idiota, perché ho capito che è l'ennesima presa per i fondelli, cioè ci stanno raggirando come fanno da 20 anni a questa parte, cambiano la persona, cambiano la faccia, dietro sempre gli stessi, finisce nel modo che deve finire. Vinciamo noi. E io non vabbè, vinciamo noi adesso. Questo. Bocca al lupo, adesso non faccia lei il comizio, però. Adesso... Fermi tutti. Vede, veda, io a differenza sua, non penso che se vincete voi è finita la democrazia. E la differenza è esattamente questa. Io non penso che se vince il PD sarà il trionfo della bellezza. Fermo non lì. Lo penso. Non fermo lo lì. Penso. Fermo lì. Cruciani, perché sei così? Perché sono uno stronzo. Uno può essere stronzo fin da bambino, questo è indiscutibile. Quando la zanzarina, certo. Understand? Tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana io sono stanco, come una muchachita. Baila col ritmo bueno, non le importa. Comunque io quando guardo mia figlia sono felice perché dico, pensa se fossi stato il padre della litizzetto, mi sarei dovuto buttare dalla finestra. Grande annuncio, Emilio Fede tenta un'altra avventura politica. Dopo il meraviglioso esperimento, te lo ricordi Parenzo, di Vogliamo Vivere? Sì, beh, lì, sì. Il nostro meraviglioso direttore battezza il movimento anti-befera Italia in mutande. Ti giuro, così si chiama. Il nome è evocativo. Non vi abbandonerò mai. Ho capito però, amico mio. Fortuna, ragazzi. Associazione ALT Italia in mutande. Cioè ALT, sostanzialmente c'è quelli... anche ALT. ALT Italia beh, in mutande. Buono, eh. ALT. Buono. Dai, su. No, no. Tommaso da Firenze, 800240024, la zanzara nel giorno in cui Berlusconi va verso i servizi sociali. Tommaso. Io era solo perché non vedo di dover specificare il tipo, di dover specificare che chi paga per andare a vedere Beppe Grillo è un idiota. Per me anche se uno ci va gratis, andare a vedere Beppe Grillo è un'attività da idioti, è un ciarlatano che fino a poco tempo fa vendeva le palline di ceramica per lavare i panni, che è una versione solo un po' più ambiziosa e dispotica del Mago Selma. Per cui lo trovo un'attività da idioti andarlo a vedere gratis o pagando. Vabbè, ok, Tommaso, qui però la questione è questa. Parenzo, dopo aver dato ai deputati e senatori dei 5 Stelle la qualifica di, com'era, cialtroni o quello che è? No, sì, molto più grave, una cosa molto più grave. Hai detto, ha aggiunto un'altra cosa. Sono idioti quelli che, pur in presenza di comizi gratis, vanno a vedere lo spettacolo di Beppe Grillo che Ciocchi, è sostanzialmente certo. Fatto dalle stesse parole. Ho capito, ma non ti devi permettere di dire una cosa del genere. Ti assumi la responsabilità, poi ti aggrediscono via web, ti minacciano. Mi stanno già manganellando via web. Gianni da Torino. Ero legittimo. Ah. Vabbè, sarà anche legittimo. Tommaso, lei pensa la stessa cosa. Siccome Parenzo non è Tommaso da Firenze, ma anche una figura pubblica, quando lo dice picchiano duro dall'altra parte. Gianni... Va benissimo, siamo qui, manganellate in rete. Gianni da Torino, Gianni. Sì, buonasera Cruciani. Fra poco un grandissimo io ospite. Io per lo stesso motivo. Perché non trovo d'accordo che lui debba offendere la gente che va a vedere Grillo. Può avere le sue idee, per carità, ci mancherebbe pure. Grazie. Però lui che è lì, che ha un ruolo in una radio, eccetera, eccetera, mi deve chiamare deficiente, se permette mi fa girare un po' ma i coglioni. Ma non è riferito a lei. Poi, si fa girare i coglioni, Gianni, si fa girare i coglioni, ma ha ragione. Non è riferito a lei come persona, caro il mio Gianni, amico Gianni da Torino. Non è riferito a me, è riferito nel mucchio, ci sono pure io. Ma e nel quindi, mucchio? Scusa, lei è molto simpatico, perché se lei vuole spendere, non so, 30 quanto costa? Non so neanche, ma non, non è l'importante, non c'entra nulla. Va benissimo, costa. Se lei vuole finanziare il movimento di Grillo, assistito a lei per offendere. Ma posso dare un giudizio sullo spettacolo, sul certo valore di quella che lo roba giudizio, e sul fatto che ritengo sciocco, posso ritenere sciocco pagare per andare a vedere una cosa che puoi sentire anche gratis. Poi lei mi dice io lo faccio perché voglio finanziare il movimento. Però e lo può fare, va benissimo, io la rispetto per questo, caro il mio amico Gianni da Torino. È incredibile come Parenzo tiri il sasso e poi quasi si no, quasi ma si non nasconde. Ho detto che ho detto che sono convinto di quel che ho detto. Vabbè, ciao. Non mi mordere il dito. Sono convinto. Non mi macchiare il vestito. Ma volete sentire il mitologico onorevole vecchio Andrea Vecchio di Scelta Civica? Non so se esista ancora Scelta Civica, una cosa di questo tipo. Sì, esiste, non so se esista lui dentro Scelta Civica. Ah. un imprenditore nel settore edile siciliano, se non mi sbaglio calabrese, il quale sostiene che tra Salerno e Reggio Calabria bisogna costruire una teleferica. Una teleferica. Ovviamente lo dice, spero, in maniera ironica, magari glielo chiederemo. Sì. Andrea Vecchio. Superamento della Salerno-Reggio Calabria. Salerno-Reggio Calabria, bisogna fare la teleferica da Salerno a Reggio Calabria, così non si passa nel territorio. Quindi lei è per il superamento? No, no, io sono per una teleferica. Chi è questa teleferica? Che ben a dire questa teleferica? Che ben a dire, ci mette un balo di auto a ca, un balo di auto da, ci stende un filo e i cristiani camminano a pista. La traduzione, la corte da dietro il vetro, da siciliano, qual è la traduzione? Un palo da una parte, un palo dall'altra parte, i siciliani stendono un filo e poi restano appesi. Fai risentire l'ultima parte là, di Andrea Vecchio. Come si risolve il problema della Salerno-Reggio Calabria da parte di un deputato della Repubblica, il signor Andrea Vecchio. Io sono per una teleferica. Chi è questa teleferica? Che ben a dire questa teleferica? Che ben a dire, ci mette un balo di auto a ca, un balo di auto da, ci stende un filo e i cristiani camminano a pista. E le persone camminano appese, nella traduzione. I cristiani rimangono appesi. I cristiani camminano appisi. Diciamo. Volevo sapere la traduzione esatta da Massimo Ciancimino. Buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Come andiamo? Salve caro. Bene, bene, grazie. Mitologico, Massimo Ciancimini, addirittura ci sono... Attento che se dici mitologico ti arriva da qualcuno poi. No, ma concorso no, esterno, a me Massimino mi sta simpatico, che devo fare? Sì, Massimino, Ciancimino. Concorso esterno? No, ma che concorso? Concorso esterno in Ciancimino. Ma perché voi vi frequentate anche fuori dalla radio? No, veramente no. Ma adesso perché? Quello abita a Palermo, io a Milano, scusa. Ma io so che vi frequentate anche con i bambini. Ma se abitassimo nella stessa città, ma quando mai? Se abitassimo nella stessa città, probabilmente lo incontrerei tranquillamente a fare due chiacchiere, non ho nessun problema, signor Ciancimino. Ha diverse pendenze giudiziarie, però a me che mi frega. Cioè, a me piacciono le persone anche che sono coinvolte in cose. È molto interessante quello che ha da raccontare Ciancimino. Voglio subito chiedere però a Ciancimino se è vera questa storia che vuole aprire un ristorante che si chiama Pizzi e Pizzini, come diavolo hanno scritto sul Corriere della Sera o su altri giornali. Sì, Pizzi e Pizzini, esatto, è un'idea molto intelligente, voleva aprirla in via America Mari 416 bis, credo insomma che le fandonie scritte in quell'articolo si commentino da sole. Per cui lei non ha nessuna intenzione, chiariamo una volta per tutte, non ha nessuna intenzione di aprire una pizzeria che sia anche lesiva nei confronti di chi ha versato il sangue per le vittime della mafia con questo appellativo. Però scusi, io vedo un'intervista con dei virgolettati suoi, Ciancimino. Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, non è che si può essere inventato tutto. Sì, avrà la sua fonte, ovviamente, e avrà percepito, perché qualcosa di vero c'è. È vero che mia moglie all'interno del suo store sta aprendo un lounge bar all'interno di un negozio che già da tempo. Ovviamente da questo a dire che sta aprendo Pizzi e Pizzini dall'altra parte della città, per giunta, credo che ce ne voglia di fantasia. Comunque, insomma, c'è chi se la beve. Cioè, scusi, virgolettato, perché i palermitani non dovrebbero venire ad assaggiare le mie pizze? Sono certo che saranno incuriositi anche dai pizzini che farò stampare sui cartoni del takeaway con lo sfondo delle foto di mio padre accanto a Salvo Lima o a Paolino Bontate. Il camuffaggio degli anni è bellissima, devo dire che per passare inosservati, come mia intenzione in questo momento, è la politica ideale. Tutta roba inedita, cose mai viste. Cioè, lei non ha rilasciato queste dichiarazioni? No, non ho mai dichiarato queste dichiarazioni. Scusi, Massimo Ciancimino arriva su una bici rosso fiamma, una bici a pedalata assistita. Quella sì, ce l'ho, una bici rosso fiamma. Ok, ma è possibile che il signor Cavallaro si è inventato tutto, proprio di virgolettati, la sua intervista? Mi puzza. Il signor Cavallaro ne risponderà nelle sedi competenti di quello che ha. Scusi, Ciancimino, mi puzza un po' sta storia, però, caro Ciancimino, com'è possibile che uno si inventi proprio totalmente le cose? No, non è inventato totalmente. Di base c'è che mia moglie fra una settimana insieme ai suoi soci inaugurerà un lunch bar. Ma è vero che avrà come fotografie di Provenzano dentro, di Bontate, non so, ne ho sentite di tutti i tipi, che ci sarà Pizze e Pizzini, che prima che si doveva chiamare Don Vito, ho sentito tante voci. Ovviamente avrà raccolto queste voci di pubbliche. C'è la frase che ho detto prima, non l'ha mai pronunciata lei? No, non l'ho mai pronunziata, anche perché è lesiva proprio per la mia persona e per altre persone che bene o male cerco di aiutare in questo difficile momento. Ma come si chiamerà allora? Diamo la notizia a sto punto, scusami. Si chiamerà Urban Lounge Store, come già è il negozio aperto da qualche mese, all'interno del negozio ci sarà questo store, dove se mi sarà consentito, perché al momento io non posso uscire dopo le 9 di sera, per cui vorrei capire a Cavallaro come faceva una pizzeria non potendo uscire dopo le 9 di sera. se mi sarà consentito magari andrò a lavorare con molto piacere, non mi vergogno né a servire i tavoli, né a sparecchiare, né a lavare piatti o bicchieri. Cioè farà il, se le sarà consentito di uscire la sera, Massimo Ciancimino farà il cameriere nel ristorante della moglie, giusto? Sì, sì, con molto orgoglio per quello che faccio e per tutti quelli che fanno questo lavoro. Credo che non sia nessun lavoro in questo momento totalmente però scusi, cioè, come succede anche quando depone nelle aule di tribunale, parla con un sorriso beffardo assicurando che da chef farà furore, stiamo controllando ogni dettaglio, solo il forno costa 5.000 euro. Adesso sembra veramente che voi, lei e Cavallaro abbiate avuto un incontro, lei abbia rilasciato un'intervista e ci sono dei virgolettati chiari in cui lei parla di foto di mafiosi. Guardi, io non ho incontrato, non ho rilasciato nessuna intervista a Cavallaro. Ovviamente poi questo Cavallaro credo che ha fatto un'intervista, l'ha registrato, l'ha scritto, avrà qualche supporto, cioè, per cui dovrà poi rispondere nelle sedi dove... Secondo me lei ne ha detta una grossa e poi adesso sta cercando un po' di... La verità si sa tra poco, mia moglie inaugura fra qualche settimana, per cui questo tipo di notizia... Beh, magari è uscita la notizia e ci avete ripensato poi. No, ma che ci abbiamo ripensato? Già è tutto fatto, fra una settimana apre mia moglie, comunque, si vedrà dove apre mia moglie, come si chiamerà. Comunque, Ciancimino, guardi, le dico la verità. A me, tra l'altro, tutta questa enfasi sul fatto che non si può fare un ristorante in cui si parla di mafia... No, non è che c'è un divieto. Ma no, ma qual è? È buon gusto, si ma chiama non c'entra cosa niente, che ti è lontano, diciamo. No, secondo me non c'entra niente, dai. Uno può fare tranquillamente il verso alla mafia, qual è il problema? Ho visto già che dei deputati del Partito Democratico si arrabbiano. Ma scusa, sarebbe veramente clamoroso. Infatti, che una persona accusata di mafia... Esatto, e lucrasse allora? Pure ma su una cosa... Sarebbe... E invece lui Asme dice, non lo faccio perché non ho cattivo gusto. Sarebbe come se uno stupratore, dopo che è stato in galera, apre un ristorante e lo stupro. Ma non ha una condanna definitiva per mafia, Ciancimino, innanzitutto. Ho detto, no, sarebbe una come? Per mafia, niente, una sola condanna per riciclaggio e basta. Sì, però così, come il suo nome è associato a quello del padre. Nessun'altra condanna. Dico, ma il problema non è questo. Io credo che ridere della mafia, anche come ha fatto saputo fare Biff, altri, può essere anche interessante, anche un buon modo di rivedere un po' lo spessore di questi personaggi, che sicuramente è stato anche troppo esaltato. Allora? Nelle loro mentalità, non nelle esecuzioni di... Senta, ma lei andrà a votare, Ciancimino, alle europee, o no? A votare alle europee sì, andrò. E per chi voterà? Per chi voterò... Grillo. Grillo? Sì, penso che rivoterò Grillo. Grillo, Grillo, penso, vabbè. Sì. Poi non so, ovviamente il nuovo panorama politico non mi appassiona. Però, lei dice, resta quella l'unica speranza. Cioè, tra la DC e Grillo vado su Grillo. Tutto il resto è tutta Democrazia Cristiana, sì, secondo lei? Chiamali come vuoi. Vabbè, cioè Renzi è DC. Sì, c'è Gasparri che forse è l'unico che... Ah, Gasparri, signore. Chi ce l'ha accusato con Gasparri? Ogni tanto, appena uno pronuncia il nome Santoro, Ciancimino, si accende Gasparri. Vogliamo risentire Gasparri di ieri su Ciancimino? Ce l'abbiamo? Gasparri di ieri su Ciancimino. Ciancimino, canzoncina. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, è la zanzara capricciosa. Santoro ha portato sulla Rai Ciancimino Junior, facendone un eroe, un'icona di mafia. Era un truffatore che aveva il tritolo in casa, andrebbe denunciato per questo tipo di uso del servizio pubblico. Ciancimino l'hanno mandato in televisione a dire bugie. Zazza, è la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. La cosa di Ciancimino è una vergogna. Lì c'è stata un'operazione fatta a tavolino. Allora Ruotolo e Ciancimino andavano in vacanza insieme. Loro hanno avuto la gestione di Ciancimino televisiva. Posso anche raccontare fatti e circostanze. Ne hanno fatto un eroe insieme ad Ingroia. Poi Ingroia ha fatto un partito. Era un bugiardo col tritolo in casa, Ciancimino Junior. Sembra il motore. Vabbè, in realtà sono sempre le stesse cose, Ciancimino, non è che... Se il buon, diciamo, occhi dolci Gasparri usasse gli occhi, anche oltre per distrarre e per fare ridere, anche per leggere le sentenze... Ma perché le dice occhi dolci? Occhi dolci perché quando lo vedi ridi, cioè, ovviamente... Mi dispiace, ovviamente è finita quella verve del duo Cicchitto-Gasparri, ovviamente come tutti i grandi comici... Si sono separati... Si dividono, si separano sicuramente ne perdono, eh. Però in due erano fenomenali, però ora ci prova anche al solo Gasparri. Ma com'è che è il dente, sempre il dente avvelenato? Basta che uno pronuncia il nome Santoro, Ciancimino, boom, boom, c'è, esatto, vergogna. Basta leggere la sentenza sulla dinamite, è stata una minaccia, dinamitardo non sono, c'è una sentenza. Vabbè, adesso non ci addentriamo su questa cosa qua. Ha qualche cosa? Ma lui conosce il 340, Gasparri, il reato di peculato. Sì, che succede? Non lo so, perché... Mi sembra che è indagato Gasparri. Sì, è indagato, sì, è indagato. Parla sempre di corde degli altri, non guarda mai in casa sua, dice che io sono stato arrestato per una presunta evasione fiscale, quando credo che c'è qualcuno che in questo momento si decida per un altro destino, per evasione fiscale, sì, a lui legato. Per cui Gasparri ovviamente combatte, e chi come me cerca ovviamente di scoprire e di dare un nome a chi in quel periodo del 92... Sì. Cioè combatte quelli... Non servì la Repubblica in maniera esemplare. Reato non reato, poi non sono fatti miei, gliel'ho sempre detto. Mm. Ma perché, io ripeto ancora, perché Gasparri è così avvelenato nei suoi confronti? Che cosa ha alla fine? Cosa c'è tra voi? Ma per fortuna tra me e Gasparri non c'è niente. Cioè credo anche a livello proprio genetico. C'è un cretino, secondo me. Ah, genetico addirittura. Cioè, proprio non c'è niente. Ma come genetico? Abbiamo geni diversi. Cruciani, no, fammi faccia ridere. Io una volta ho votato Gasparri. No, dai, Ciancimino, no. Non questo, lo dica così che sta non male. Non lo dica così, dai. Glielo, veramente, le giuro, su, mi ha fatto una simpatia quando l'ho incontrato a Roma, che si è spedito come se fosse un bagaglio, perché l'aereo in ritardo all'interno del club Frecciolata. Lui protestava così tanto che si è infilato nel carrello dove vanno i bagagli. No, ma non ci credo. No, dai. E allora? Non ti può dire così. Mi faceva così simpatia, ha detto questo è matto come un cavallo, che siccome ero residente a Roma, ho votato per il partito di Gasparri. Cioè, che cos'era all'epoca? Alleanza Nazionale. Cioè, lei una volta ha votato per Gasparri? Sì, ma proprio il personaggio, no? Ma le fa schifo? Una cosa del genere, ripensarci, si fa schifo da solo? Non lo so, poi abbiamo pure chiacchierato in aereo. Mi ricordo che una volta era lui in aereo che parlava con l'Annunziata. Parlavano della legge, quella magnifica legge che ha fatto Gasparri, digitale terrestre. Sì, quella sulla televisione, sì. Sì, sì, la famosa legge Gasparri, la famosa legge Gasparri. Vabbè, la famosa legge Gasparri. E dunque? Comunque, ribadisco che, insomma, se volete, da mia moglie con piacere ospiti Cruciani e Parenzo. Beh, andiamo, Parenzo, qual è il problema? Hai paura? Se sono... Paura di che cosa? Hai se paura sono di andare a cena con Ciancimino? Non ho capito. Ma assolutamente no, a parte che ho già cenato con Ciancimino quando venne a Milano a Telelombardia Iceberg, quindi abbiamo già cenato insieme altre volte. Ma vengo se sono a... Ma di cosa ho paura? Qual è la questione? Senta, se lei... sono a Palermo... Cruciani non ho mai cenato. Beh, faremo presto. Ciancimino, lei pensa, è contento se Berlusconi va ai servizi sociali oppure in un altro paese dovrebbe stare in galera ai ceppi? Guardi, non credo che sono l'ultimo personaggio che può esprimere questo tipo di giudizio. Vabbè, lo dica però. Lo dica, cioè, la sua sensazione, in un altro paese sarebbe già in galera oppure solo in Italia si arriva a un giudizio dopo così tanti anni? No, credo che in un altro paese la politica abbia in automatico... dovrebbe agire prima della magistratura. Purtroppo c'è un'invadenza di campi laddove la politica non esercita il proprio potere di poter emarginare certi personaggi anche momentaneamente discussi. Sì. Nella magistratura si assiste sempre a questa invasione di campi sia dalla magistratura che da parte della politica. Se ognuno facesse il proprio lavoro nella maniera più appropriata, forse certe. Senta Ciancimino, ma questo famoso tesoro, diciamo una volta per tutte, ultimamente che quant'è che le hanno sequestrato? 5 milioni? Una cosa del genere. Ultimamente non mi hanno. Ultimamente ho consegnato io alla procura 12 milioni, che 12, non trovavo. 12 milioni. Ma quanti soldi ha lei all'estero? Facciamo un conto definitivo. Ogni volta sono 24 miliardi. 24 di miliardi. Lire. Dove ce li aveva questi 12 milioni? Come l'ha fatti 12 milioni? No, erano di mia madre ed erano dal 1976 depositato presso un conto della Malesia. Ma come si fanno 12 milioni? Come si fanno? Io dovrei chiedere a mia madre e a mio padre. Ma è suo padre allora li ha fatti. Suo padre. Mia madre, anche perché io avevo 6 anni. Ma no, ma perché sacco di Palermo? Comunque, guardi, sacco di Palermo. Guardi, ma io vorrei capire una cosa, Cristiani e Parenzo, che siete simpaticissimi e bravissimi. Ma perché i soldi di Formigoni, i soldi anche di altri mafiosi, sequestrati migliaia, ultimamente hanno ordinato il sequestro di 49 milioni di Formigoni, hanno ordinato. Ma perché solo il mio tesoro? Ma no, ma il tesoro no, è perché, certo, è diciamo la verità, caso, Ciancimino, ma... suo padre non è che questi soldi li ha accumulati in maniera così proprio trasparente, cristallina, insomma, diciamola tutta, le colpe dei padri non è che per forza... No, ma in merito a questi soldi mi sono permesso di renderli noti all'autorità giudiziaria in quanto erano già oggetto sia da parte di gente come Rina che diceva che io parlavo per i soldi, mi sono permesso di metterli a disposizione in quanto le forze dell'ordine non riuscivano ad arrivare alla erano in Malesia, erano già stati dissequestrati dall'allora giudice Falcone. Senta, secondo lei, mi dica in una parola, per concludere su questa storia di mafia, ma Di Matteo rischia davvero, sì o no, in pochi secondi? Sì, rischia tanto. Rischia tanto, eh? Rischia tanto, rischia il processo, 18 tenteranno di... No, ma rischia la vita anche, rischia la vita, qualcuno, perché Sgarbi dice la mafia non esiste più, Di Matteo non rischia. Esiste la mafia invece? Sgarbi ovviamente ha una sua visione, credo che dati come il Sole 24 Ore portano la mafia come la prima azienda in Europa come fatturato e come... Come rischia la morte, rischia che l'ammazzano. Sicuramente l'aria è pesante. Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Ah, per quel cesso di trasmissione. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via. Si svegliano per me. E ancora a casa, Evo. Tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia. Il procuratore generale è d'accordo con Ghedini e Longo. D'accordo! Con Ghedini e Longo? Esatto, sia l'affidamento in prova. Sia l'affidamento in prova. D'accordo! Il mio corpo nudo. Mi adorano così. Forse un giorno. Io ancora non ci posso credere che un tribunale della Repubblica, un giudice voglia portare a processo Umberto Bossi per una stronzata del genere, perché nel 2011 in un comizio diede del terrone al presidente della Repubblica, a Giorgio Napolitano, ve lo assicuro, è così. Bossi diede del terrone nel 2011, ma Bossi ne ha dette di cotte e di crude molto peggio di quel terrone. Eppure qualcuno ha speso tempo, carta, soldi nostri per arrivare a un processo di questo tipo. Ce ne saranno decine o centinaia in tutta Italia, d'accordo, ma questo è un esempio classico di come si perda tempo nei tribunali italiani a mettere sotto processo Bossi. Che paese di merda. Ecco, per esempio, ha detto questo che paese lui, di merda. Però non io, eh. No, era lui, sì, beh, certo. Ma magari tu che c'entri? Però collegamento con gli Stati Uniti. Con noi il professor Edward Luttwak. Buonasera, professore. Buonasera, Zanzara. Moschito. Buonasera. Buonasera, professore. Senta, allora, mi sembra che la sua ricerca... Italia? Sì. A grande... Si parla di economia in questa trasmissione con Barisoni, dicevo ieri. No, questa non è Barisoni, grande però. Grande problema di Italia è spesa pubblica, dipendenti pubblici e camussi. Sì. Sì. Noi pensa che bisogna fare come in Inghilterra. Quando c'è spesa pubblica eccessiva, in Inghilterra licenze dipendenti pubblici. Sindacati in piazza. Sì, vabbè, quello è che c'è. 5 minuti, arriva polizia Bobby, signor Bobby. Con no, Bobby quelli in Inghilterra sono. Comunque uguale, in Inghilterra appunto, dicevo. E manganella fino a quando non sgombra Trafalgar Square. Scusi, professor Luto, che la cosa è molto semplice. Di comunista? No, io che c'entra comunista? Comunista fa obiezione. Ma uno non comunista. Può, non può, no, ma uno non può spazzare via così. Questo Landini? Non sono Landini. No, non sono Landini. Ok, allora sei zitti perché quello rovina il paese. Se tu butti in strada dipendenti pubblici risparmi e cominci finalmente a creare produttività nel paese. Questi protesta con sindacato fa happening, no? Con bandiere, CGL, sciopero, articolo 18, confischi, tutto bloccato, strade bloccate, gente incazzata, traffic jam, economia ferma, danni, milioni di euro, PIL va giù, disastro, sindacato con bandiera rossa. In e piazza, allora? Che succede Cruciani, poi? Che fa bimbo. No, Cruciani non parla dei sindacati. Molto semplice, così ripristini F-35, utilizzo di F-35 che il governo vuole. Ma come, con i sindacati in piazza? Con sindacati in piazza, tu prendi F-35, piccolo sorvolo di Piazza di Popolo, Roma, sorvolo, molto basso, una bomba giù, risolto il problema di manifestazione di questo Luttwak. Sindacato che comincia a fare i Landini, Cruciani, con bandiere, that's it. Vabbè, grazie professor Luttwak. I consigli di Luttwak: sparare sui sindacati. Gioacchino, provincia di Fermo. Oh, Gioacchino Genchi, finalmente. Buonasera. Dica. Allora, io sono uno degli idioti che sono andati ad Ancona a vedere Grillo. E allora? Quanto ha pagato? Vorrei sapere perché... Quanto ha pagato per il biglietto? Il signor Parenzo offende le persone quando potrebbe offendere tranquillamente il Presidente del Consiglio, che sta portando in giro 56 milioni di italiani. Vabbè, quello è il suo giudizio su Grillo, secondo lei porta in giro, cioè prende in giro 56 milioni di italiani, per tradurlo dal dialetto marchigiano, dallo slang marchigiano all'italiano. Però, caro Gioacchino, Parenzo è convinto che lei è un idiota. Quanti soldi ha speso? Ma non lei, in quanto Gioacchino. Sì, tu hai dato dell'idiota a Gioacchino. No, magari lo faccio. Io ho pagato 30 euro. 30 euro, si sente un idiota lei? Come? Si sente un idiota? Sì, mi sento un idiota secondo Parenzo, però. Io sento il Presidente del Consiglio che candida quattro donne capoliste che sono già onorevoli. No? Allora? Io penso che questo sta portando in giro, è un idiota lui. Vabbè, Giada da Ravenna, buonasera Giada. Ciao, buonasera. Ciao, dimmi. Volevo fare, tocca ancora Parenzo, insomma, a proposito di diritti fondamentali e desiderabili, che lui prima ha citato, volevo chiedergli che cosa pensa di una donna single che vuole avere un figlio da sola, ricorrendo quindi a qualche spermatozoo donato. Ma io questo sono, ieri ho detto che sono favorevolissima dalla sentenza della Corte sulla inseminazione eterologa, l'ho detto più volte. Come no? Ma certo che ha detto. Però quando riascoltati la registrazione, perché ho detto che è una sentenza civile. Ho qualche dubbio soltanto sul single, ma però dopodiché voglio dire, non è che mi metterei a fare le barricate. Sono a favore della sentenza della Vabbè, questo lo sappiamo. Ieri. Io ti sto chiedendo spesso. Giada invece lei vuole avere avuto, non lo so, un figlio da single. Da single, come purtroppo è impossibile per un single adottare, di conseguenza mi sembra difficile che. Quante donne single conosce che hanno figli? Ma infatti non ho detto che sono contro, ho qualche dubbio. Purtroppo in Italia il single non può adottare, questo le lo ricordo intanto, oltre che avere figli, single non può ancora adottare. Vabbè, allora cominciamo con fare adottare un single. Allora non sono d'accordo, perché fondamentalmente è un'assurdità che io come donna posso tranquillamente uscire e trovare, voglio dire, chi voglio e farmi inseminare, però se voglio farlo legalmente devo varcare i confini e devo aggiungere Non è sbagliato. Ho capito perfettamente, grazie Giada. Fabrizio da Trento. Non ho parole. Su che cosa? In generale su tutta quella che è la vostra linea, del vostro circo. Chiudiamo. Sì, in che senso, scusa? Basta, chiudi tutto. Nel senso che siete due servitori di chi veramente comanda in Italia e si serve di gente come voi per raccontare panzane. In che senso? Nel senso che ce la raccontate lunga su Berlusconi, lo prevede come capro espiatorio, raccontate una cazzata qua, una cazzata là. Sì. Della speranza. Noi che cos'è che facciamo, scusi? Raccontate cazzate a tutto spiano. Raccontiamo su, ma può darsi. Però, questo qua, ma che vuol dire? Vuol dire che tutto quello che prendete in considerazione, ora in modo serio, ora in modo meno serio, oppure proprio in modo scherzoso, non c'entra nulla con la realtà. Non c'entra nulla. È una rappresentazione. E invece la sua realtà qual è? La realtà del professore Fabrizio da Trento, quale sarebbe? Ci faccia questo dono prezioso della sua realtà. Beh, te lo dico da amico. Sì. Alla Razzi. Allora? Comunque, la realtà è molto diversa. Sappiamo bene, cioè molti sanno bene che il governo Renzi è una pagliacciata, che è una messa in scena del vero governo Padoan, che niente a po' di meno che oggi erano gli Merkel, eccetera, eccetera, va bene. Non cambia nulla, guardi, sul fatto che non cambi nulla, perché in realtà se non ci si smuove da alcuni parametri non c'è dubbio. Dunque, atteniamoci alle piccole cose. Lei è un tifoso del Movimento 5 Stelle? Assolutamente no, perché anche quello è nelle mani di Rockefeller. Nelle mani di? Dei Rockefeller. Perché? Della famiglia Rockefeller. Perché? Perché la famiglia Rockefeller, attraverso Lam Chan e un certo molto noto Sassoon, è uno dei soci di quell'azienda di Casaleggio, e guarda caso la sede socio, dove Sassoon. Loro hanno il loro sito lì era socio Stelle, Sassoon era storia, Ma non la sa, perché ha detto un'inesattezza. Sassoon è... No, ha detto un'inesattezza. Ragazzi, basta, mi avete rotto le scatole tutti, tutti e due avete rotto le scatole con questa cosa. Va detta, è però una stupidaggine quella che ha detto. Non c'è nessun movimento etero diretto dagli Stati Uniti, da nessuno. Sassoon, va bene? Era socio. Mi avete scocciato. La Zanzara. Raffaele da Brindisi, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. È un po' di tempo che devo dire la stessa cosa. Stasera mi ha fatto spunto il... Non sento niente, Giulio da Milano. Sì, buonasera a voi. Dimmi, Giulio, dimmi. Niente, io volevo dar ragione al buon Parenzo, perché io lo seguo dal 2006, Grillo, da quando ha aperto il blog. Sono stato uno dei suoi più grandi sostenitori nel primo anno, tra l'altro l'ho anche conosciuto. E credo che oggi, cioè, voglio dire, io il primo anno ci ho creduto, perché credevo veramente volesse cambiare le cose. Poi ho capito il suo gioco, e penso che l'abbiano capito, diciamo, quasi tutti, il fatto che lui fa della grande, cioè, della grande demagogia, dice tante cose giuste, condivisibili, però poi è un atto pratico e bravo solo a fare i suoi interessi. Se cioè qualcuno è in grado, fare, lui praticamente ha fatto 4 tour nel periodo in cui ha pastorizzato un po', di circa 100 tour, 100 spettacoli ogni tour, ogni anno ha fatto il pieno di... Ragazzi, perché... ma uno fa uno spettacolo, se ci vuoi andare ci vai, se no, certo, se no non ci vai, punto. Ci, ma qual, certo, è il problema? Non ho capito qual è il problema. I problemi dell'Italia, capisci? Non ho capito. Nel momento in cui l'Italia sta affrontando dei problemi grossi, c'è un vuoto politico, tu non puoi soppiantarlo facendo leva su quei problemi lì, come faceva la buon Banamarchi, facendo leva... Vabbè, ma lei è uno di quelli che pensa che Grillo è il Banamarchi della politica, su, cioè... Bravissimo, bravissimo. Va bene, d'accordo. Il Banamarchi della politica, perché lui praticamente fa grandi parole, attacca chiaramente la gente che è in difficoltà, ormai si attacca un po' dappertutto, quando stai affogando ti attacca anche uno stronzo, e lui facendo leva su sua cosa fatturava, praticamente quando hanno fatto vedere quello che lui guadagnava qualcosa come 450.000 euro al mese. Per fare quello che faceva, questa è la conseguenza naturale dello sbocco politico, ma lui non gliene frega una mazza di quello che dice. Lui quello che fa, giustamente, come ha capito che funziona questo paese, vabbè, tante chiacchiere e la gente ci crede. Va bene, grazie. Roberto Cuneo, buonasera. Buonasera Parenzo. Dica. Quello che volevo dire è che ne ho i zebedei pieni di questo Berlusconi, ai domiciliari, libero, campagna elettorale. Ma è possibile? La Costituzione dice che se i cittadini sono tutti uguali, nei tribunali la legge è uguale per tutti, ma perché diavolo questo deve fare campagna elettorale? Non è possibile, non riesco a capire qual è... Guardi, se uno va ai servizi sociali, durante la giornata, se non ci sono prescrizioni particolari, potrà fare sicuramente dei comizi, potrà comunicare all'esterno, insomma, vedremo poi tra 15 giorni, tra 10-15 giorni. Di rompere i coglioni, buon fine, fa quello che deve fare, basta, cazzarola. Abbiamo sprecato decine di milioni di euro per fare dei processi, veri o finti che siano... Mogliamola lì di rompere le palle. È possibile che abbiamo solo Berlusconi di cui parlare? Ma non questo è il Berlusconi di cui parlare. Limitante, se un partito, però, se un partito che si chiama Forza Italia prende, secondo gli ultimi sondaggi, il 20, 21, alcuni dicono meno del 20, comunque siamo lì sul 20%, e c'è un leader che questo partito ha, che è stato condannato per frode fiscale, tutta la storia che sappiamo, beh, è normale che ci sia casino, che se ne parli. Lei di cosa si stupisce? Che si parla di Berlusconi? Ma dico, siamo impazziti? Ci vuole morti, ma lei? No, io mi stupisco se questo è condannato, o uno condannato finisce in galera, o che cazzo cosa andiamo a fare? Cioè, amico mio, questa è l'Italia, non è come gli Stati Uniti in cui c'è gente che va in carcere per 150 anni, per 30 anni e buttano la chiave. Scusa, l'Italia c'è anche è un po' diverso. Una questione di tempo, Che vuol dire una questione vuol di tempo? Con l'altra banalità. Vuol qual dire è? Che se no non ci hai riflettuto abbastanza, ma non è una tua colpa. Vai, forza, un'altra banalità se del giorno. Se tu sei ai servizi sociali, durante il giorno dovrai lavorare per i servizi sociali, no? Sì, ma dipende, anche qualche ora. Come? Anche qualche ora basta in alcuni casi. Appunto. Allora? Dopodiché però la sera avrai il dovere di rimanere a casa. Non lo so, non è detto. Dipende quali sono le prescrizioni. Appunto, cioè... quindi dipenderà anche dalle prescrizioni. Ma no, ma quando mai? Ma l'abbiamo già detto. Allora, se sarai domiciliari la sera o avrà il dovere di firmare, è imbarazzante se uno deve andare ai servizi sociali la mattina. Poi fa un comizio. Si fa riprendere mentre pulisce il culo agli handicapati, oppure mentre aiuta o motiva o fa il motivatore. Ma è così, oppure fai il motivatore. Ma come parlo? Zanzare con l'odioso insetto. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e ratti e sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray. Gianluca Milano, buonasera. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Ciao, caro. Volevo intervenire sulla questione di Parenzo, che ha detto che siamo tutti degli idioti. Che sì, tagliamo. Siete idioti perché andate a vedere lo spettacolo di Grillo, sì. pur avendo altri spettacoli, altri comizi gratis, dice Parenzo, che ha dato degli idioti a quelli che vanno a pagare il biglietto 30 euro, 25, 30 allo gratis, spettacolo, certo, di Grillo. Di sì. Ma non dire cazzate, su, dai, forza. Intanto, tu rispendi 30 euro? Ma io rispenderei, sì, rispenderei, se potessi, non me ne frega niente. Ma non paghi neanche la pizza quando vai al ristorante, tirchiole tu tirchiole tutte le volte. Ma 30 mai? Euro? Ma che dici? Lo sei sanno impazzito. Tutti ogni volta che mi porti certe bettole perché non vuoi tirar fuori neanche 2 euro. Ma dai, ogni volta che c'è sta scena e tu pagheresti. Detto. E tu adesso direi. No, è perché me la stai tirando. E tu adesso pagheresti 30 euro, certo, per lo spettacolo di, certo, Grillo? Assolutamente. Giuralo, sì, su ciò che hai di più caro. Lo giuro assolutamente. Sì, ma assolutamente. Sei un pubblico mentitore. Tu, quando andiamo a prendere il caffè qui a Radio 24, non qua sotto, pago sempre io perché non è la sempre chiavetta, in coglione. Ma non c'è bisogno del portafoglio, al bar, qua sotto dalla signora, non che c'è ancora ti insegue, dimentichi ancora il portafoglio. Oh, scusa, l'ho dimenticato, hai mica il millino. Ma che dici? Il ma millino, dici ancora, ma il non leurino, hai mica l'eurino. Cretino. Non spenderesti neanche 90 centesimi per il caffè, tu. E adesso paghi 30 euro per vedere Grillo? Certo. Ma mi faccia il piacere. Adesso stai ribaltando la discussione. Tirchione, risaputo, urbi e torbi. Telefonate, amici di Cruciani, telefonate. Ma e raccontate se lui davvero spende per la pizza. Telefonate. Ma certo che spendo telefonate, un amici di Cruciani, e raccontate aneddoti. Gli è partita la brocca. Stufato adesso. Gli è partita oggi la brocca. Mi hai stufato oggi. Mi hai gli è partito, vedi che l'ho appunto però su una tu cosa. No, ma perché gli tu è partito non spenderesti mai 30 euro? Gli è partito il broccone. Grillo. Ma sei come un no? Bugiardo radiofonico. Sì. Barba finta. Sei una barba finta. Scusami, posso farti una domanda? Sì, prego, caro, prego. Volevo chiederti una cosa, ma sì, dimmi. Tu vuoi cambiare le cose? No. Ti piace mantenere io questo status quo? Voglio questo status quo. Mi voglio piace il Senato, il Senato, cambiare, la finta, certo, abolizione del Senato, certo, mi piace la finta cambiare. Abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, mi piacciono tutte queste non cose. È vero, sì, non è vero. Mi piacciono tutte queste cose. Non è vero. A me sembra che a voi piace mantenere, diciamo, questo status quo, no? Discutere su queste notizie del mainstream, non approfondire mai. Adesso questo sono cazzi nostri. Adesso questo di cosa parliamo sono cazzi nostri, Gianluca. Non cominciamo. Io adesso l'ho appoggiata, ma di cosa parliamo noi sono cazzi. Se vuole sentire i pipponi di Grillo e degli altri di 50 minuti, vada su YouTube e si veda che noi facciamo la nostra trasmissione. Se lei vuole, ci segue, altrimenti se ne vada a fare in culo. Appunto, su questa cosa volevo darvi un consiglio. Sì. È meglio che rimanete in radio, perché quando andate in TV vi bruciato. Oh, mamma mia, ha fatto la battuta il signorino, la battutona sulla trasmissione televisiva a 6 mesi di distanza. Bravo Gianluca, bravo. No, hai fatto la battuta. Ma tu dove cazzo vai tu? Scusami Gianluca, dove vai ma tu? Ma nemmeno hai nei cosi puoi andare, nemmeno nei camerini ti fanno entrare. Io sono ovunque. Dai, sono ovunque, su, ma falla finita, dai, buffone. Vieni qui a sfottere, ma vieni a rubare a casa dei ladri. Ma veramente vieni a rubare a casa dei ladri, dai, su. Comunque volevo farvi i complimenti per il teatrino che fate alla sera, è divertente, ci si diverte, a me fa incazzare perché comunque andate poco nel profondo delle cose, ma rimanete ovviamente nel teatrino, va bene, ma ricordatevi che le persone hanno svoltato, come si suol dire. Hanno svoltato, che vuol dire hanno svoltato, Gianluca? Che vuol dire? Le persone sono molto più informate, vanno oltre. Sì, vabbè, lei è informato, lei pensa di essere più informato, si informi, benissimo. No, io non sono informato, ma penso che anche Parenzo, vedevo che prima diceva di Rockefeller, eccetera, eccetera, sicuramente la vostra maschera nella trasmissione va bene, ma anche voi sapete che le persone vanno oltre. Sarebbe bello che anche da parte vostra ogni tanto ci sia qualche segnale, ma mi rendo conto che ovviamente difendete lo status quo. Noi difendiamo lo status quo. Se distruggete lo status quo perdete il posto di lavoro, è normale. Sì, il posto di lavoro, ma perderà lei il posto di lavoro. Ma io lo che lavoro fa lei? Che lavoro io fa sono lei? Una puttana, sono un venditore. Ottimo, e quindi meraviglioso. li vendo ogni giorno per la sopravvivenza, tutti i giorni, e mi sono rotto i coglioni sinceramente. Sì. Però vado avanti. Ma noi, scusi, ma qual è stato, è la ruota del criceto, quale status quo dovremmo difendere noi? Scusi Gianluca, non mi faccia mi risponda su questo. Qual è lo status quo che noi difendiamo? Scusi. Allora, intanto non sa, lei voi... usa delle frasi così ad effetto, voi difendete lo status quo, ma di che parliamo? Di cosa sta parlando? Lo status quo posso dire che cos'è per me lo status quo? Che cos'è lo status quo? Lo status quo in questo momento, voi, visto che alla fine ogni sera non fate altro che parlare delle notizie del mainstream, quindi il Corriere, ma invece, la Repubblica, ma a parte che non è vero, ma che cosa dovremmo fare? Ma che invece al contrario cosa dovremmo fare secondo voi? Andare a prendere quella notizia, scardinarla, guardarla, verificarla e magari farsi anche due risate sopra. Sì, vabbè, insomma, lei ha in mente un'altra trasmissione. Se vuole un'altra trasmissione, io la invito ancora una volta. Ci sono tantissime carte e penne, scrive un format. Io mi diverto perché mi fate incazzare, torno sempre a casa incazzato quando vi ascolto, è bellissimo perché poi ottimo, sai, ti tiene l'incazzatura, no? Almeno non è la solita ruota. Vabbè, ti abbraccio fortissimo, un abbraccio ti, forte, ti voglio bene, già ti mando da fare in culo, ma ti voglio bene lo stesso. Dai. Ciao caro, ciao. Non mi mordere il dito. È bello però mandarsi a fare in culo e poi abbracciarsi, eh. A me piace tantissimo questa cosa. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì, è bello. Quello è un genio assoluto. Ti ha fatto impazzire quello lì con questa semplice frase. Semplice, ti ha fatto impazzire. Che vuole che sia io, Luciani? Pronto? Pronto? Vedi, sì. Non sono mai arrabbiato, sentilo. E il conduttore? Vedi, se era tranquillo. Non ho capito. Tranquillo, cioè quello ha chiamato a no, ha chiamato. Stupendo. No, ma ha chiamato. Ti ha fatto impazzire. Poi parlava, chiaramente parlava con noi, no? Sì, poi lentissimo. Dici chi è il conduttore? Scusi, ma che cazzo ma doveva essere? Ma poi educatissimo, questo pronto? È bello. Senti, pronto? Sì? E il conduttore? L'educazione anche un po' balbuziente, anche un po' balbuziente. Sì, ma anche educatissimo, capito? Sì, mi ha fatto perdere la brocca. Scusi? Mi ha fatto perdere la scusi? Brocca. Scusi? Cosa vuole? Dica, parli, più traffico! Lei è il conduttore? Lei è una... un genio. La voglia ce l'ho. Pronto? Sì. Sì. E il conduttore? Vedi che hai capito che è Aulo da Udine. Aulo da Udine. Ecco, sì, buonasera. Dai, numero uno, di. No, io volevo dire a Crusani, no, che quando spara le sue emerite cazzate, che più che sentirsi idioti quando si va ad ascoltare Grillo, che è una scelta libera, io mi sento un idiota ogni volta che mi sintonizzo sulla Zanzara e sento parlare non Crusani ma Parenzo. Ma è gratis, ecco. Però. Com'è? È gratis. Ho capito, è gratis infatti, però. È quello, ancora peggio, perché è gratis e quindi noi ci sintonizziamo su una radio e dobbiamo anche ascoltarlo e sentire le sue baggianate. No, capito, è gratis, questa gratis. È la differenza. Comunque lei si sente un idiota ad ascoltare Parenzo e non Grillo. Se vuol pagare, le diamo anche l'ABI e il CAB nostro e benissimo, e paga ma pure. Ma senta Parenzo, quando lei tra qualche anno avrà fatto carriera o la pseudo carriera e potrà paragonarsi a Grillo, perché Grillo, oltre ad essere un professionista della comicità, è anche un politico vero, perché le cose le dice e le pensa nel modo giusto, e non è vero che fa solo il comico, ma Grillo, bisogna ringraziare Grillo per questo i cambiamenti che ha portato in Italia. Quando lei riuscirà a riempire le piazze o per la politica o per gli spettacoli, allora potrà parlare. Per adesso è un giornalista messo lì, sì, vicino a Crusani, e quindi non posso esprimere giudizi su Grillo. Non può, ha ancora le carte in regola non posso. Per dire che la gente che paga per Grillo sono degli idioti. Ho capito, ecco. Non posso esprimere giudizi su Grillo, d'accordo. No, non puoi esprimere giudizi su Grillo, non assolutamente può. Va bene. No, non puoi dare oggi non esprimere. Io non ho detto questo, io sto dicendo è che pronto? Non può l'ascoltatore? La gente di essere idiota perché pronto? Vuole è l'ascoltatore? Pronto? Pronto? Sì? Sì? E il conduttore? È il conduttore, sì. Allora, mi è venuta a trovare una mia amica, Parenzo, guardami dalla webcam. Guardatemi dalla webcam. È webcam, la mia amica, dammi un bacetto. E io non ti vedo qua. Grazie. Edoardo dalla provincia di Teramo. Edoardo è una mia amica, mi è venuta a trovare qui in redazione alle 20:27. Sono un po' stanco questa sera. Mi ha dato un bacino. Dammi ancora un bacino, tesoro. Grazie. Pronto? Sì, dica. Ma Edoardo, sei tu che ti pronto? Dato baci, ma è lei che mi dà il bacio. Comunque, ma va a sentire questa. Guarda, dimmi. Anch'io è venuta un'amica a trovarmi. Senti, dov'è? Dammi un bacino. No, vabbè, te lo stai dando da solo in questo caso, dai, buffone. Allora, il TAR del Lazio, questa è la vergogna dell'Italia. Ascoltate questa notizia. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato contro l'autorizzazione concessa alla compagnia Emirates di collegare direttamente Milano Malpensa con New York. Senti questa cosa. Tali autorizzazioni sono infatti riservate ai trattati internazionali. Il TAR del Lazio boccia il volo Malpensa a New York di Emirates. Ma tu ti rendi conto? No? Il TAR del Lazio! Noi siamo in mano a questa gente qui. Beh, questa Renzi gente, dovrebbe però... pensare ad abolire il TAR, abolito cancellare il TAR, ma TAR del Lazio. Ma serve il TAR o no? Cancellare subito il TAR del Lazio. Chi c'era con Edoardo? C'è anche il Consiglio di Stato. Un altro bacino. Edoardo della provincia di Teramo. Sì. Vai, ma scusa, io ho bisogno in questo momento, ma per un 20 minuti. Ma non è pornografia, mi sta dando un bacino una mia amica, è venuta a trovarmi. Ma ti pare che sul posto di lavoro uno si ma porta la ganza e si fa dare i baci in diretta? Ma no, è una mia amica. Ma non è la ganza, è una mia ma amica. Ma ti pare che uno che lavora un tassista in macchina dice scusi, piazza di Spagna per cortesia. Aspetta un attimo, qui c'ho un... Zanzara! C'è una zanzara tigre. Dammi un bacetto. E io non ti vedo qua. Grazie. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino, c'è l'aria del letto. A Lussemburgo alle 18.30 si ascolta solo la zanzara. Non vi scordate di noi che siamo nati qua e siamo tantissimi. Vabbè, tantissimi non lo so, però vi abbraccio fortissimo come tutti quelli che stanno correndo, forse hanno già smesso, che stanno correndo, si stanno allenando oppure si stanno semplicemente divertendo correndo ascoltando la zanzara con le nostre voci nelle cuffie, caro Parenzo. Ma è la tua amichetta. È ma sono lì? Affari miei, sì, è ma sempre qui accanto a me. Si porta sul sì, posto, sì, si esatto. Fa ma non è il posto di lavoro. Dai un bacetto, sì, per favore, ancora. Ho bisogno di un piccolo bacetto. Piccolo, piccolo. No, no, no, così. Adesso dove lo l'ha dato? Dove dammi un bacetto. E io non ti vedo qua. Grazie. Ma lei è il conduttore? Pronto? Sì. E il conduttore? Sì, sono il conduttore. Ma ti pare che adesso voglio dire... Aspetta, fermo. Vincenzo Danna sul Movimento 5 Stelle. Fascisti che esasperano la piazza. Dobbiamo aspettare che ci gambizzino sotto il Senato? Questo ha detto oggi. Ma senti quello che ha detto alla Camera contro i 5 Stelle che sbraitavano, come sai, sulla questione della TAV, del... no, anzi, forse credo della questione del voto di scambio. Se vi metteste l'orbace o il fez... Credo che noi vi potremmo inquadrare in una fenomenologia storica che è già trascorsa. Vedo che qualcuno la camicia nera già se l'è messa. Così come altri si sono opposti allo squadrismo. Bene. Noi ci opporremo a questi nuovi squadristi. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. No, amico mio, a noi piace tantissimo un mondo in cui tutti si possono sposare, in cui tutti possono adottare figli, secondo delle regole, ovviamente. Certo. Siamo a favore qui alla Zanzara in maniera chiara, feroce. Cos'è questa roba? No, è un... dei matrimoni gay e delle adozioni gay. Punto e basta, molto semplice, senza troppi tentennamenti, senza distinzioni. Noi siamo a favore, come succede in Spagna, come succede in Gran Bretagna, nella Gran Bretagna guidata dai conservatori, siamo a favore del matrimonio e dell'adozione gay. Alcuni non hanno l'adozione, però sicuramente siamo a favore del matrimonio tra omosessuali. Chiaro? Dammi un bacetto. E io non ti vedo qua. Grazie. Oh, a proposito di animalisti, yes, cacciatori, padre, eccetera. Ma non è possibile lavorare in queste condizioni. A proposito, oggi Mastella e la moglie sono stati rinviati a giudizio, sì, per associazione a delinquere, il signor Mastella. Pazzesco, e la moglie. Alla vigilia delle europee, lui. Beh, che e come mai, secondo te? Come mai? Vabbè, lasciamo perdere, va. Allora, Tozzi, te lo ricordi Tozzi, quello del Cunnilingus? No, del cantante. No, che c'entra il cantante, Tozzi? No, Tozzi il coso, Tozzi il geologo. Il geologo. No, il nostro amico Tozzi, grandissimo. Geologo con cui ho fatto grandi battaglie sul ponte sullo stretto di Messina, eccetera eccetera. Signor Tozzi, in un confronto radiofonico, credo che fosse Radio, con un cacciatore, uno dell'associazione dei cacciatori che si chiama Veneziano. Senti cosa dice, spero che vi estinguiate nel più breve tempo possibile. Noi stiamo parlando di questa roba qui, in un contesto come quello italiano la caccia è un controsenso che andrebbe abolito. prima o poi si arriverà a questo, perché tanto diminuiscono progressivamente i cacciatori, spero che gli aumenti. E in più si fanno fuori anche da soli, e noi ci auspichiamo che si ammazzino il più possibile. Ecco, questo razzismo del professor Non è un razzismo. Io spero che si continuino a dare delle fucilate come fanno gli altri. Gli italiani sentono. Cioè, spero che si diano delle fucilate tra di loro e dunque si ammazzino il più possibile. Ancora, ancora. Sono dei poveracci, va bene così. Sono dei poveracci che si estingueranno, presto. Io spero che lo facciano tra loro a fucilate. Sempre meno di lei. Allora, e della sua... però il presidente. Spero che si sterminino a fucilate fra loro. No, vabbè, che questo meglio, ecco, di no, meglio di no. No, meglio. Ecco con chi abbiamo a che fare. Fortuna che tutti gli ambientalisti non sono come il professor Tozzi. Speriamo che vi sterminate a fucilate. Le auguro una palla in fronte. Si conservi la in salute. La ringrazio. Tozzi, amico mio, che mi hai combinato una palla in fronte ai cacciatori. Viva la caccia! Viva la caccia! Allora, io vorrei andare. Io una volta sono andato a caccia in Madagascar con mio zio, che ancora va a cacciare in Serbia. Ha acquistato in Serbia. Sì, sono andato in Madagascar 20 anni fa. Nel 1993, 20 anni fa. Mio zio fa il medico. Chi ha pagato il viaggio? Mio zio urologo. Lo zio. Sì, il mio zio urologo. Sì, perché tu non tiri fuori un euro. No, ma non c'è. Nel 93, 20 anni fa, non c'avevo un euro. So io le storie. Allora, senti, amico mio. Allora, 20 anni fa sono andato in Madagascar e sono andato a caccia con mio zio. Caccia di anatre. Dai, ma che roba. A caccia di anatre. Io non potevo nemmeno cacciare all'epoca, però qualche colpo me l'ha fatto tirare. Ovviamente non ho preso nessuno, però mi ha fatto tirare qualche colpetto. Vabbè, che te ne vanti, ti è piaciuto? Era la caccia ai fagiani, alle anatre, bellissimo. Una roba storica che esiste da una marea di anni. La caccia, viva la caccia regolamentata, ma viva la caccia. Tozzi, sono barbari, persone inferiori, sì. Da questo punto di vista sono un barbaro, una persona inferiore, caro Tozzi, è vero. Chi pratica la caccia in questo contesto moderno di un paese occidentale è sostanzialmente un barbaro, tutto qui. Poi dopo, se lui dice che ci si diverte, peggio ancora, peggiora la situazione, capisci? Una persona è una persona inferiore dalla società. Da Brindisi, buonasera. Viva la caccia. Cucciani, dimmi. È un qualcosa che ho maturato ascoltandovi un po' di tempo. Sì. Per quanto riguarda quello che diceva Berlusconi, che i comunisti usavano denigrare l'avversario per buttarlo giù. Sì. E questo lo sta facendo Valenza a continuazione, e tutte quelle altre persone che sono contro Grillo, che si sta rodendo il culo realmente, perché gli sta fregando parecchi voti. Lo sa che non ho capito quello che sta dicendo. Glielo ripeto. Allora, avete un modo per denigrare quello che fa Grillo o tutti quelli che appartengono al movimento di Grillo buttando del fango e non con degli argomenti. Senta, noi sentiamo le frasi, sentiamo quello che succede, le proposte, eccetera. Ho attaccato tutta la sera Parenzo perché ha detto che quelli che vanno a pagare lo spettacolo di Grillo pagando sono degli idioti. Abbia pazienza. Su quello gli voglio fare una domanda. Allora, sono più idioti quelli che vanno a vedere uno spettacolo a pagamento sapendo cosa vanno a vedere, o quelle cene che i partiti hanno sempre fatto per accalappiarsi i voti durante le votazioni, con i soldi loro stessi erano invitati a cena, però eravamo noi stessi che con le tasse pagavamo. Questi sono due discorsi diversi, però. È vero che Grillo, da questo punto di vista raccoglie soldi, ha fatto anche un appello per non so quanti soldi, 2 milioni di euro che vuole, 1 milione di euro per l'Europa, con i suoi spettacoli fa quello che vuole, li vuole far pagare. La gente l'ipocrisia va. È che lui aveva detto all'inizio della campagna elettorale, ancora un anno fa, cosa ha detto? Che non ci ormai c'è la rete, non si devono raccogliere soldi. Ma non è vero, dai non privati. Ha detto questo. Aveva detto questo. Senti, però adesso fammi sentire un signore. Amico Tozzi, ma che mi combini? Che succede? Ma dai, un proiettile in testa ai cacciatori. No, ma quelle sono cose di esagerazioni iperboliche, me ne scuso se qualcuno se ne è avuto a male, io non auguro niente. No, tu vorresti che i cacciatori sparissero dalla circolazione, cioè quelli che vanno... Questo sì. Senza violenza possono sparire benissimo tranquillamente per estinzione naturale. Ma ho capito, si devono sparare tra di loro per estinguersi naturale. No, questo tanto lo fanno comunque, ma non è quello. No, ma non lo fanno, è vero, non è che ci sono tutti questi incidenti tra cacciatori, Mario. Beh, qualcuno ce n'è. E tu quando c'è qualche incidente tra cacciatori godi, godi. No, no, beh, fino a che si scherza. No, non so. Beh, un po' godi, dai, quando succede. No, devi confessare la verità. Cioè, tu da non profondo. Mi dire cose che non mi metti in bocca cose che non penso. No. Mi scuso se. Ma l'hai detto, l'hai detto, quello è un poveraccio. No. Ti auguro un proiettile in fronte. No. Io mi scuso appunto di aver detto cose esagerate perché non me lo ricordo nemmeno, ma insomma esagerate lo erano, ma erano determinate dalla concitazione della discussione, perché i signori con cui interloquivo dicevano che loro erano dei grandissimi appassionati degli animali, tanto appassionati che gli sparavano. Ma certo, ma anch'io sono appassionato, anzi no, non sono appassionato di animali, però ho una famiglia di cacciatori, anch'io sono andato un paio di volte a caccia, una volta addirittura in Madagascar a sparare i fagiani, non mi ricordo che ma cosa. Ma sembra una cosa nel senso millennio che c'ha senso. Guarda, mi sono divertito, stare dentro là in attesa ore e ore, ci sono andato solo una volta, poi aspettare ore al buio per sentire un rumore di una e poi sparare, una follia, però una notte va bene, ho passato una notte. Però posso dire, guarda, questo argomento però che è tipico pure dei cacciatori, dicono sempre, noi ci piace alzarsi la mattina, andare in campagna, il cane, cioè, tutte queste cose le può fare lo stesso, pure se non c'è. Ma no, ma ragazzi, però la caccia può anche fine, servire per equilibrare l'ambiente. Dai, Mario, esiste da quando esiste il mondo, dai, su. Mario. No, ma come no? Tu sai che io ti venero come conduttore, però quando entri nell'antropologia devi avere una cognizione, cioè, maggiore di causa. Non mi dire che non nasce per niente cacciatore. E che nasce? Cacciato? Nasce preda. Tanto cioè? È vero che se tu ti guardi allo specchio, guarda un po' che canini che c'hai. No, io se mi guardo allo specchio... Quando vedi un gorilla, figura mamma di un leone. Mia, spacca lo specchio. E c'hai un intestino di 9 metri. Cioè tu sei un erbivoro, sei una preda. Sì. Poi arrivi ad essere cacciatore per via culturale, non per biologia. Vabbè, però diciamo la verità, la caccia fa parte della nostra storia. Tu non puoi trattare i cacciatori come cacciatori come dei criminali, come dei barbari, come delle persone inferiori, come hai detto. Hai detto che sono delle persone inferiori, dai, su. Scusa, ti posso dire una cosa? Secondo te uno che si diverte, sì, prova divertimento nell'uccisione di un'altra vita, secondo te è uno che c'è tutto un rito. Ma il rito lo dovessero, basta che non ammazzi. Ma non è vero, ma per andare a caccia significa ammazzare gli animali. Gli animali sono inferiori rispetto all'uomo, diciamola tutta. No, significa. Beh, no, come questa Cruciani. Allora, non sono inferiori, l'animale... non sono inferiori rispetto all'uomo. No, gerarchia, non c'è una gerarchia. Questa ma come non c'è? Cioè, se tu devi salvare la vita un animale o un uomo, per te è la stessa cosa? No, non sto dicendo questo. Naturalmente salverai la vita all'uomo, però non è che c'è una piramide. Non sono così sicuro. Gli insetti, poi gli anfibi, i rettili, i mammiferi e poi l'uomo. Questa è una cosa che ci piacerebbe, ma non è così. La vita è come un cespuglio con tanti rami. Uno sarà il gorilla, uno sarà lo scimpanzé, uno l'uomo, uno il precolo, l'altro il esistono... Gerarchicamente non c'è differenza. Dunque non ci possiamo arrogare il diritto di animali superiori, perché peraltro non lo siamo nemmeno. Non so, per esempio, per il meccanismo della visione. Ma a te ti fa schifo uno che spara un animale? Ti fa schifo? Ti fa... Veramente proprio non riesco a provare altro sentimento che una specie di onesto ribrezzo. Ribrezzo per chi spara un animale? Cioè chi spara, che ne so, un fagiano, chi spara a una lepre? Cioè, tu uccidi un animale, dunque, sopprimi una vita per il tuo divertimento, perché certo non lo fai per mangiare, anche se te la mangi, però a parte che non è vero, no, certo, non sei spinto dalla necessità nella maggior parte dei casi, la maggior parte dei casi sono persone che sono anche benestanti. Considerato uno sport la caccia. Ma ho capito, ma è un ragazzi, allora eliminiamo pure il tiro al piattello alle Olimpiadi. Guarda, che ci sono delle funzioni nostre, diciamo, di varia natura, io questo lo ammetto, però che tu le sistematizzi a livello di divertimento, che trovi divertimento nella soppressione di una vita, perché peraltro tutto il resto della però, caccia Tozzi, lo potresti conservare. Tozzi, questo, scusami, io trovo veramente, Tozzi, veramente stai sereno, posso dirti una cosa, Tozzi, stai sereno. L'unica caccia alla quale è interessato Cruciani è un'altra. Non qual è le anatre, lascia stare. Ma sei uno stronzo. L'unica caccia. Nasce spesso questa storia dell'uomo cacciatore, queste cose qui, dal fatto che noi abbiamo voluto interpretare in un certo modo la storia naturale, ma non è andata così manco per niente. Quando vedevamo i giacimenti fossili di tigre dai denti a sciabola, mammut e uomo, pensavamo che era l'uomo che ammazzava tutte e due, sia la tigre che il mammut. Poi si è scoperto che le ossa dell'uomo erano intaccate dai denti della tigre. Mario, eravamo prede pure noi. Sì, io mi sono, devo dire la verità, mi sono... quando ero lì, giovane, 20 anni fa, con mio zio, con un fucile in mano che manco potevo portarlo, in Madagascar, in una botte, non mi ricordo che cosa. Ma poi in Madagascar lo scrigno della biodiversità tu vai a fare casino, ma ti sembra normale? Ma che me frega a me dello sta biodiversità in Madagascar, ma che cazzo vuoi che me ne frega? A 20 anni là stavo in Madagascar con mio zio, stavo a pensare alla biodiversità del Madagascar, ero a Nosy Be, amico mio, sai cosa significa Nosy Be? Sai che significa Nosy Be in Madagascar? La biodiversità, andiamo, gratis peraltro, e tu le vuoi seminare. Senti, com'è finita la storia del cunnilingus? Lasciamo stare. Com'è finita la storia del cunnilingus? No, io non voglio rimettere in onda. Io ti ho anche salvato perché non ho più rimesso in onda nulla. Voglio sapere. Riconosco, vedi, come vedi, sono qui a rendere. Ti hanno cazziato? Però... hai passato i guai per quella cosa che hai detto su cunnilingus, sul pompino, eccetera? Qualche guaio abbiamo passato. Ma è vero che hai saltato qualche convegno, qualche cosa, no? Sì. No, veramente? Questo, ma limitatamente, diciamo. Hai limitato i danni. Hai limitato i danni. No, grazie, devo dire. Grazie a voi anche, abbiamo limitato i danni. Mi dispiace, qui non si può parlare. Una cosa la dici giusto, è molto difficile parlare fuori dai tempi. È vero che le esagerazioni, ripeto, io ne ho fatta una appena, dunque di quella me ne scuso. Ma nell'altro caso non c'erano esagerazioni. Ma no, hai raccontato una cosa. Ma hanno detto, state zitto che è meglio. Ecco. E dunque ti hanno fatto saltare qualche appaltino? Ma hai perso non cose grosse, ma hai perso qualche migliaio di euro per avere detto quello, semplicemente per avere detto che ama il cunnilingus e non il pompino? No. Ciao Mario, a presto. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, saluti, ciao. Saluti, ciao. Rita D'Alecco, Rita, no, ma che è? Fermi, che è? Scritto. Ma cos'è la sigla? Siete pazzi? La sigla è in anticipo. Non voglio finire questa sera, datemi qualche secondo ancora. Rita D'Alecco, aspetta con la sigla. Amorosi di Panorama. Che vuole Amorosi di Panorama? Hai ragione, David. La frase precisa che ha detto Grillo è: non servono i soldi per fare politica. Grazie, Amorosi di Panorama, grazie. Ma non è Amorosi di Panorama, no, non c'è. Vabbè. Fact checking. Sì. Vabbè, Rita D'Alecco, Gianluca da Livorno, Michele da Gorizia, ci sentiamo domani, va, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Dammi un bacetto. E io non ti vedo qua. Grazie. Radio 24. La passione si sente. E il conduttore?